Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. E auguri a Radio 24 che oggi compie 21 anni. Beh, quindi tanti auguri a noi. Tanti auguri a noi. Allora, oggi finalmente si riparla di maratona grazie anche al grande evento della London Marathon, di cui parleremo alla fine del programma. E per essere allineati a questi 42 km e 195 metri, oggi abbiamo chiamato una maratonetta, Giovanna Epis, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie, bene. Allora, terza domenica scorsa ai campionati italiani sui 10.000 metri di Vittorio Veneto, com'è andata? Dai, è andata bene, devo ancora un po' riabituarmi alle gare, nel senso che è stata comunque una gara dura, perché una maratoneta che gareggia in pista, insomma, non è mai il suo ambiente ideale, però è stato bello ritornare a una gara vera e emozionante davvero. Comunque hai fatto anche un bel personale, insomma, un bel tempo. Sì, sono, diciamo, è il mio terzo tempo di sempre, diciamo vicino al secondo tempo, comunque giù di lì sul personale, perché il personale è 32.59, ho fatto 33.16, quindi insomma su di lì. Bene, dai. Poi, insomma, come forse abbiamo già detto un sacco di altre volte, ma quando ti guardiamo in gara proprio non risparmi neanche un centesimo di secondo, insomma, arrivi alla fine dando tutto proprio. Sì. Un po' come tutti, diciamo, però insomma, si vede anche fisicamente che arrivi sempre bella. Sì. Che non c'era più nulla da dare. Anche se poi la tua corsa è sempre sciolta, non so, sembra veramente che, cioè, da una parte si vede ovviamente dal viso che stai facendo fatica, però non cambia la tua corsa, davvero. Sei una dai, delle grazie. Poche. Sì. Giovanna, domanda forse un po' banale, ma che differenza c'è tra correre 10 km su strada e 10 km in pista? Abissale. No, nel senso che, vabbè, in pista comunque la meccanica di corsa è completamente diversa, dovendo ovviamente correre su un anello di 400 metri, non è come correre in strada sui rettilinei, anche se è un percorso comunque metti muscolare con delle curve, è totalmente diverso. Poi comunque in pista ovviamente ogni giro ti scandisce il ritmo, mentre in strada la mente è molto più libera, quindi vai molto più a sensazione. Per quello è più faticoso. Io alle volte dico che correre comunque un 10.000 in pista è paragonabile quasi a una maratona, nel senso che comunque mentalmente ti impegna molto. Una maratona con le chiodate, però. No, vabbè. No, ormai le chiodate le ho dimenticate quando ero cadetta, forse. Tu sei tornata a correre su strada anche alla mezza di Monza, no? Il 13 settembre, una delle prime gare ad aver ripreso nonostante, insomma, tutte le restrizioni del protocollo di sicurezza. Come è stato rimettere il piede sull'asfalto? È stato emozionante, comunque è stato bello correre una mezza maratona, nonostante comunque sia un periodo davvero difficile per le corse su strada. È stata una bella opportunità, comunque un bel test, e volevo assolutamente ripartire con una gara su strada, anche per capire bene qual era la differenza con gli allenamenti, perché ovviamente tra allenamenti e gara è tutto un'altra cosa. E sei rimasta soddisfatta? Comunque hai fatto un buonissimo tempo. Soddisfatta no, per niente. Cioè, le sensazioni non sono state positive, perché vabbè, faceva molto caldo, io sono una che il caldo lo soffre parecchio, e poi il percorso era molto nervoso, quindi soddisfatta no, però mi è servito tanto per rompere il ghiaccio. Per rimettere il pettorale, insomma. Sì, esatto. E poi c'è sempre questa Valeria Strano lì davanti, non molla mai. Non molla mai Valeria, no, infatti domenica quando sono arrivata ho detto: cavolo, questa vecchietta mi fa morire. E ancora qui sei. Sì, però mi aiuta molto a livello comunque anche mentale, cioè mi dà uno sprono è un davvero grande. Sì, avere un avversario alla fine aiuta, insomma. Sì, assolutamente. E pensa anche a quanti anni avrai ancora davanti, no? Esatto. lei, quindi era cosa... Sì, sì. Giovanna, come sono andati questi ultimi mesi tra restrizioni e allenamenti invece? Sono andati diciamo bene, cioè questo periodo è stato difficile e complicato da una parte, dall'altra mi ha dato il tempo per comunque stare dietro delle cose che non curavo mai, quindi ho curato molto di più anche la palestra e mi è servito molto, diciamo che in allenamento mi sento molto bene e tutto quello che sto facendo in allenamento non si è ancora visto in gara, però insomma ci vuole pazienza. Arriverà. Infatti l'abbiamo visto anche un po' dai social, seguendoti un po', che sei dedicata un po' al potenziamento, forse cosa che prima facevi un po' meno. Sì, da novembre mi sono, cioè da dopo diciamo Doha, ho voluto un po' cambiare la mia preparazione, comunque magari facendo qualche chilometro in meno e dedicandomi di più alla palestra con un personal trainer, con delle persone comunque che mi seguissero a fare gli esercizi, e diciamo io lo sento molto a livello proprio di gesto di corsa. Ovviamente ci vorrà un po' perché insomma si veda il risultato in gara. Quindi nel lockdown diciamo che hai fatto tanto di questi esercizi. Esatto, sì, grazie alle videochiamate, per fortuna che ci sono adesso, e non ho mai smesso. Tre volte a settimana facevo due ore e mezza di sedute di palestra, e poi alternavo con magari i rulli in bici, e poi a metà lockdown ho avuto anche un tapirulan, quindi qualcosa riuscivo a fare, insomma. Ah, sei riuscita ad averlo, insomma, perché lo cercavano in tantissimi e alla fine era molto difficile recuperarlo. Quello e i rulli per la bici. È vero. Ma Giovanna, quindi cosa fai adesso invece? Togli un allenamento di corsa, diciamo così, e aggiungi la palestra? Allora, quando stavo preparando la maratona di Milano, cioè prima del lockdown, diciamo, sì, facevo la palestra al pomeriggio, magari al mattino facevo qualche chilometro in più, e diciamo magari sui 20-22 ore e mezza al mattino, e poi la palestra al pomeriggio. Ovviamente poi se fai la maratona non è che i chilometri li puoi trascurare. Sì, però cercavo di arrivare all'allenamento della palestra senza aver corso prima, in modo che potevo essere bella fresca, insomma, cioè senza aver corso di quel pomeriggio, al mattino poi il pomeriggio solo palestra. Così, cioè, mi è servito molto, soprattutto all'inizio, perché ovviamente all'inizio si soffre di più quando non fai certi esercizi, quando non fai certe cose, al primo impatto le soffri, insomma. E com'è andata appunto durante il lockdown a tenere sempre viva comunque la motivazione, no? Non si avevano obiettivi, e insomma ancora adesso, no, si sa qualcosa, non si sa, insomma ci sono moltissime restrizioni. Com'è che hai vissuto questa cosa? All'inizio, quando ancora c'erano le Olimpiadi in ballo, comunque la motivazione era altissima. Poi quando le hanno rinviate ho avuto, cioè lo ammetto, una settimana dove ho detto no, cioè io adesso cosa faccio? e poi ho detto no, vabbè, comunque in tutto il mondo sono, cioè nel senso anche la campionessa olimpica è come me, quindi sì, nel senso siamo condizione. Tutti nella stessa barca, e prima o poi ricominceranno le gare, quindi io devo allenarmi e devo essere pronta, quando ricominciano devo essere pronta a ripartire. Quindi, e questo mi ha dato la motivazione. Hai tenuto più, diciamo, una preparazione di allenamento di base, insomma, per mantenere la condizione. Sì, esatto, quello sì, e soprattutto da quando poi si poteva correre fuori ho velocizzato un sacco, e ovviamente perché i chilometri, non sapendo cosa fare di maratone, che soprattutto già mezza maratona sembrava una cosa folle, quindi ho cercato di fare quello che non ho mai fatto durante gli ultimi anni, perché comunque c'era sempre una maratona da preparare, quindi ho velocizzato e ho fatto degli allenamenti che facevo quando ero giovane, diciamo. Ma nel frattempo appunto parlavi di Olimpiadi, no? Tu ti sei, diciamo, qualificata con il tempo di 2:29 corso a Rotterdam nel 2019, quel tempo adesso vale ancora per Tokyo 2021? Sì, quel tempo, i tempi li hanno comunque, i tempi fatti l'altro anno sono validi per le Olimpiadi. Okay. Ovviamente sono quasi 2 anni che non corro una maratona, e chi corre la maratona sa che quando non si corre da tanto, insomma, no, che non è un problema, però bisogna comunque affrontarla la distanza, non è banale correre una maratona, quindi spero di correrla prima delle Olimpiadi. Qual è che potresti fare secondo te? Per ora non ho programmato assolutamente niente, sto andando step by step, adesso preparo il mondiale di mezza e poi si vedrà. Purtroppo questa situazione ci fa reagire così, nel senso che si va di gara in gara e già adesso che ho fatto il 10.000 su pista e poi il mondiale di mezza già mi sembra qualcosa di così definito, sì. E mi fa stare tranquilla, dico ok, ora ho fatto due gare, che bello. Infatti abbiamo ripreso pian piano. Infatti il mondiale di mezza maratona ci sarà in Polonia tra 2 settimane. Sì, esatto, sì, 2 settimane, il 17. Sì. E niente, hanno confermato il mondiale, siamo tutti felicissimi perché comunque fino all'ultimo non si sapeva. Ci saranno delle procedure ovviamente da seguire e per il periodo che siamo ok, però insomma si correrà e sarà bello perché comunque sarà una gara, cioè, competitiva, perché ovviamente tutti vogliono correre. Infatti, tutti vogliono correre l'ora. E cosa ti aspetti, Giovanna? Guarda, non mi aspetto niente, cioè sono serena, nel senso che vado lì e voglio correre bene e forte. Quindi non mi aspetto nessun tempo in particolare e sarà bello indossare la maglia azzurra quest'anno perché avrà ancora più valore. Infatti, certo. Parli di maglia azzurra, purtroppo mi viene in mente, insomma, l'anniversario che c'è stato la settimana scorsa, l'anniversario della maratona di Doha. Che sì. L'hai digerita o no? Il giorno nero, infatti ho fatto gli italiani di 10.000 proprio il 27, infatti, cavolo. Lo ricordavi bene, diciamo, il giorno. Sì, comunque Doha mi è servito tanto, è stata dura, però mi è servito tanto a capire anche la gestione di gara, soprattutto la gestione anche nervosa, cioè un'esperienza così ti segna da tutti i punti di vista. Ok, comunque perché è una competizione di alto livello alla fine, insomma. Anche se è andata male alla fine, cerca di capire un po' quelle dinamiche. Comunque poi si è visto che, nel senso, anche la keniana, quella più forte, cioè, nel senso, siamo tutti umani, davanti al caldo c'è poco da fare. E oggi invece c'è la maratona di Londra, per chi ti farai? È una grande lotta, non lo so, sarà bello solo vedere, cavolo, sapere che sta ripartendo una maratona, a me sembra impossibile, cioè ripensare che a marzo, dire che a ottobre ripartiva una maratona, ma nessuno penso ci avrebbe scommesso. Sì. È una London Marathon un po' particolare perché insomma sarà un circuito, no, di 1,9 km ripetuto più volte, insomma è solo per gli elite. Come sarà anche Valencia, dove andrà tra l'altro Valeria Straneo. Sì, sarà anche lì, ovviamente le maratone per l'elite saranno così, però cioè ben venga, poi sai quando stai correndo ti accorgi forse anche poco che sono dei giri, cioè nel senso personalmente non mi darebbe così tanto fastidio fare un circuito, cioè almeno ti dà la possibilità di correre una maratona e già sei fortunato. Infatti. E tra l'altro vabbè, ci sarà Valeria Straneo, per cui tu hai detto beh, meglio se non vado lì. No, diciamo non ho ancora programmato niente, quindi dopo i mondiali penserò cosa fare. Poi siete amiche con Valeria, dai, c'è un bel rapporto. Sì, siamo amiche avversarie. È giusto così. Sì. Grazie mille allora Giovanna, a presto in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo. Allora, come abbiamo anticipato in apertura, oggi è andata in scena un'edizione della London Marathon carica di emozione. Per un breve commento alla gara, nuovamente con noi Giorgio Rondelli, giornalista e commentatore nonché allenatore di grandi campioni come Giovanna Epis, che abbiamo appena sentito. Ciao Giorgio. Buon pomeriggio a voi. Allora, la notizia, almeno per la gara maschile, non è il vincitore. Non è il vincitore, che era un ottimo atleta, ma non sai, la notizia è la sconfitta di Eliud Kipchoge, l'uomo che detiene il record mondiale della maratona 2:01:39, che aveva fatto anche il famoso tentativo riuscito di correre sotto le 2 ore e che poi aveva fatto 14 maratone, ne aveva vinte 13 e solo alla seconda maratona era arrivato secondo, quando il primo aveva fatto l'allora record del mondo. Quindi dopo la rinuncia di Bekele era favorito di più, invece improvvisamente a 5 km dall'arrivo si è spenta la luce e poi alla fine ha accusato più di un minuto dal vincitore Shirakitata, che è stato bravo a vincere una volata agonisticamente molto intensa e a precedere Kipchumba, poi alla fine di un solo secondo. E non possiamo dire che sia l'inizio della fine di questo grande atleta, insomma, con una sola gara così. Sai, va bene, diciamo, sono titoli un po' forti, perché è chiaro che quando uno ha dei risultati come quelli che ha fatto Kipchoge, è chiaro che oggi è come una sconfitta calcistica 4-0 giocando in casa. Però ci può stare, è una giornata particolare con condizioni climatiche difficili, dopo 6-7 anni in cui sei imbattibile, è una giornata di basso voltaggio, può capitare. Okay. Certamente adesso sarà da attendere alla prossima maratona. Di anni ne ha 36, sempre che poi non ne abbia qualcuno di più, e comunque ha fatto cose eccezionali. Anche smettesse domani mattina non deve dimostrare niente a nessuno. Certo, una notizia che fa clamore è una maratona di Londra che è stata tutta ribaltata da come era stata presentata, come tutti l'attendevamo, come la grande sfida fra Bekele e Kipchoge. Al femminile invece si sono confermati i pronostici, diciamo. E ha vinto l'atleta più forte, l'atleta che ha un personale di 2:14.04, il nuovo primato mondiale femminile, seppure in gara mista, e ha dimostrato poi di avere una marcia in più, quindi poi a un certo punto se n'è andata la Corsei, ha vinto in 2:18.58, che è vista l'ora del mattino, le condizioni climatiche che erano forse peggiori di quelle maschili, è davvero un signor tempo, e quindi è lei in questo momento la numero uno mondiale. Ha distrutto la Cembjetic, che poi alla fine, proprio sul finale, è riuscita a perdere anche il secondo posto dalla Rembajumi dell'americana Hall, che ha fatto appena sopra le 2:22, quindi poi un buon contesto femminile con altre 3 o 4 atlete entro le 2:25, ma bisognerà attendere situazioni agonisticamente diverse per vedere se fra qualche mese i grandi protagonisti saranno ancora gli stessi. Vediamo se si potrà, la cartina tornasole potrebbe essere la maratona di Valencia, sempre che almeno per i big si faccia il 7 di dicembre, credo. E tra gli italiani in gara c'era Meucci. Questa grossa delusione, perché grossa delusione relativa a Daniele Meucci. È un Meucci che sembrava avere la condizione di forma, la carica agonistica per attaccare il muro delle 2:10, o comunque fare il suo personale che era 2:10:45. Una ottima prima metà gara in 1:04:24, poi però anche per lui la luce si è spenta, era già 1:32:52 al trentesimo chilometro, e poi poco dopo ha gettato la spugna, quindi credo che ci riproverà sicuramente, non so se entro l'anno o l'anno prossimo in primavera, quindi comunque è un atleta che ha già dato molto. Vediamo, per il momento è stato bocciato per la riconquista di quello che è la teorica terza maglia azzurra in vista dei giochi olimpici dell'anno prossimo a Tokyo. Grazie mille Giorgio. Grazie a voi, buon lavoro. E grazie a Paolo Corleoni regia, noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15 e quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.